Volevo iniziare dalla vostra idea del festival, di voi di Compagnia della Quarta, certo, del 2018, perché vi siete approcciati alla videodanza, alle esperienze di realtà aumentata virtuale. E virtuale, esatto. Certo. Guarda, in realtà come tutte le cose è partito per una nostra curiosità personale. Come Compagnia della Quarta noi abbiamo sempre lavorato sulla produzione dal vivo, quindi avevamo degli spettacoli con danzatori o con attori che avevano la possibilità di un tour internazionale. E durante questi nostri tour siamo venuti a conoscenza della videodanza, che appunto fuori dai confini italiani aveva una sua presenza, una sua esistenza, una sua produzione molto forte, mentre in Italia appunto era molto frammentata, era molto accennata. Quindi abbiamo cominciato semplicemente per curiosità, cioè per capire che cos'era la videodanza e come si esprimeva. Abbiamo avuto dei primi rapporti con un festival storico messicano, Ajite Sirva, e attraverso Paulina Ruiz Carballido abbiamo iniziato un po' ad esplorare un po' questo mondo. Quando siamo tornati in Italia da questo tour ci siamo chiesti: ma cosa succede in Italia? Quali sono le realtà che si occupano di videodanza? Ne abbiamo scoperte alcune, molto frammentate, molto sparse, videodanza spesso relegata nell'angolino dimenticato della programmazione dello spettacolo dal vivo, e da lì è nata un po' l'idea di capire se questa disciplina poteva avere invece una sua evoluzione, poteva avere una sua forza. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in questo senso, quindi innanzitutto studiando che cos'è la videodanza, mettendoci in relazione con artisti, con progetti, con festival internazionali che appunto questa disciplina la conoscevano e la gestiscono tutt'oggi molto molto bene, e da lì è nato Festival. 2019 è stato il primo debutto, abbiamo presentato solo film in proiezione cinematografica, quindi diciamo l'esposizione più canonica della videodanza, quando nel 2020 è arrivato il famoso Covid che ci ha messo un po' con le spalle al muro, e lì siamo stati costretti a fare un po' un salto nel vuoto. Avevamo solo due strade: o decidere di fermarci, ma questo poteva essere rischioso per noi perché come secondo anno di un festival appena inaugurato, insomma, poteva significare anche chiudere il festival, oppure l'altro, cominciare a spostarci su una proiezioni cinematografiche sfruttando delle nuove tecnologie, come un visore in realtà virtuale, un tablet o uno schermo di uno smartphone. E in realtà da questo salto nel buio è stato poi per noi invece, come dire, è stata la rivoluzione del festival, perché abbiamo scoperto non solo tanti progetti di qualità con artisti incredibili, ma ci ha dato anche un modo di approcciarci alla videodanza totalmente diverso, ci ha dato anche degli strumenti diversi per capire la fruizione dello spettatore sulla strumentazione della nuova tecnologia. Ed da qui poi è nata la nuova linea direttiva di Zed Festival, che ad oggi si occupa in special modo, in particolare, di tutti quei progetti, di tutte le relazioni tra lo schermo e il corpo danzante, per cui schermo cinematografico, tablet, smartphone, visori, realtà aumentata, realtà virtuale, video installazione. È un mondo in continua evoluzione, e la cosa per noi molto affascinante è che se nello spettacolo dal vivo la danza è il protagonista principale, scopriamo che invece spesso il processo creativo non nasce dalla coreografia, ma nasce da un contesto altro, che poi richiama la coreografia, perché la coreografia, essendo danza, esprime meglio dei concetti invece che altre discipline. Veniamo allora alla settima edizione, quella di quest'anno. Dal 2 al 6 luglio, al primo atto, ci sarà un secondo atto a novembre, di cui parleremo approfonditamente più avanti. C'è un'inaugurazione speciale, diciamo, quest'anno, perché c'è una performance live. Sì, forse per il primo anno abbiamo deciso di fare una giornata inaugurale strutturata proprio come evento. Non solo presenteremo in anteprima le opere in XR, della danza XR, avremo anche ospiti gli artisti che hanno prodotto, che hanno realizzato questo opere, anche se generalmente nella danza Fonte XR non c'è bisogno dell'autore in presenza. E abbiamo però voluto anche trovare questo legame tra la danza XR e la danza dal vivo, perché in un certo senso, pur utilizzando la nuova tecnologia, il rito, diciamo così, dello spettacolo rimane lo stesso, nel senso lo spettatore deve comunque recarsi in un luogo specifico, in un orario specifico, per fruire di quell'esperienza, esattamente come fa quando va a teatro. E quindi ci piaceva in qualche modo far quadrare tutti questi elementi, e poi lo spettacolo dal vivo insieme alla danza XR, insieme alla tecnologia, può essere un momento di condivisione della comunità e del pubblico, quindi ci piaceva provare questo doppio aspetto. Tra le varie sezioni in cui è suddiviso il festival ce n'è una di esperienze in XR, in cui sono coinvolte degli artisti che non avevano prima fatto opere usando tecnologie avanzate. Ci puoi dire qualcosa? Sì, è uno spoiler in realtà, perché le presentazioni presenteremo nel secondo atto, ma quest'anno Zed come festival è entrato anche nei processi di produzione di alcune opere in virtuale, in XR, e per noi è stato molto significativo vedere come dei soggetti storici della danza dal vivo si stiano poi approcciando aprendo alle nuove tecnologie. In primis citiamo Aplomb per la produzione di Euterpe, che vede coinvolte le coreografie di Michele Merola e di MM Company, o il lavoro delle Artemis Danza per la direzione di Monica Casadei. E questo per noi è molto interessante. Come Zed Festival siamo intervenuti da un punto di vista tecnico, creativo, artistico, dando anche degli strumenti, ma anche dando delle conoscenze degli strumenti che vengono utilizzati per la realizzazione dell'opera. Ma quello che è più significativo è vedere come nomi storici della danza dal vivo si aprono invece alla possibilità di raccontare la danza con strumenti tecnologici, con uno strumento che fondamentalmente non fa parte del loro bagaglio storico. E questo è significativo perché vuol dire che forse la videodanza, la danza in XR, sta un po' abbandonando l'idea di nicchia, ma si sta approcciando sempre di più a un vero e proprio processo creativo.